Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. Non mi sono montato la testa, questa introduzione serve solo a presentarvi il primo libro di questa domenica, di cui è autore appunto Goffredo Mameli, l'autore dell'inno che ci ha accolto. Il libro si intitola Fratelli d'Italia, è curato da David Bidussa, sono le pagine politiche di Goffredo Mameli pubblicate da Feltrinelli, 122 pagine, 6,50 euro. Insomma, qui troviamo gli scritti politici di questo giovane patriota, raccolte dal direttore della biblioteca della Fondazione Feltrinelli, e secondo il quale Mameli, lungi dall'essere un padre della patria, è stato a lungo un clandestino della storia italiana, e lo dimostrano per esempio le peripezie delle spoglie di Mameli, alle quali fu sempre negato perfino un funerale solenne nel cimitero della sua città, Genova. Come mai questo esilio in patria, come lo chiama il curatore a proposito dell'atteggiamento che abbiamo avuto nei confronti di Mameli? Forse risponde perché era repubblicano. Essere repubblicano per Mameli significava completa adesione all'amor di patria, leggo dalla prefazione di Bidussa, laicità, ovvero tenere lontana la religione rivelata dalla politica, essere con il popolo e dunque assumere la democrazia come procedura e come atti prima ancora che sistema di regole. Gli scritti raccolti in questo libro di Goffredo Mameli, che fu fedele discepolo di Mazzini, assumono così il valore di testimonianza di un pezzo della cultura risorgimentale che ha avuto meno fortuna, ma che permea certamente le idealità contenute nel nostro inno nazionale. Un inno che, tra parentesi, è diventato ufficialmente tale soltanto nel 2006, forse perché nell'immaginario collettivo questa composizione di Goffredo Mameli rimase abbastanza marginale nella cultura popolare, risultando spesso molto meno popolare di canzoni come La leggenda del Piave o Giovinezza, giovinezza. Eppure troviamo nelle pagine di Mameli degli spunti di grandissima attualità. Per esempio, abbiamo parlato nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di liste e dei criteri con i quali preparare le liste dei candidati. Beh, sentite cosa scriveva Mameli a proposito della preparazione delle liste elettorali l'11 gennaio 1849, poche settimane prima di morire. Scruteremo nei nostri candidati i fatti passati. Elimineremo gli uomini che, o per tristizie o per inettezza, hanno mancato all'onore e agli interessi del paese. Non appoggeremo che i nomi di coloro il cui passato ci si appegno per l'avvenire. La fine di Goffredo Mameli, appunto avvenuta in seguito alle ferite riportate nell'assedio di Roma, quando la Repubblica Romana viene assalita dai francesi, fu il simbolo, tra i più evidenti e dolorosi, della reazione che seguì alla primavera del 1848, quando quasi tutta l'Europa fu squassata da un movimento che in certi casi diventò autenticamente rivoluzionario e che lasciò il segno nella storia futura. In Italia, per esempio, ma anche in Germania, avviò il processo di unificazione nazionale. Il 48, insomma, fu un anno decisivo, degno di stare a fianco del 1789 o di altre date fatidiche successive, come l'11 settembre. Questa è la tesi dell'autore del libro che adesso vi presento, che si intitola appunto 1848, l'anno della rivoluzione, di cui è autore uno storico inglese, Mike Rapport. Il libro è pubblicato dalla Terza, 580 pagine, 24 euro, ed è tradotto da David Scaffei. Il libro è molto godibile, ancorché frutto di studi molto prolungati su questo anno straordinario che vide l'Europa infiammarsi e rovesciare i vecchi regimi. Questa fiammata esplose a Parigi, Milano, Venezia, Napoli, Palermo, Vienna, Praga, Budapest, Cracovia e Berlino. Non dobbiamo neanche dimenticare che in quell'anno fatale vide la luce uno dei documenti destinati a cambiare la storia del pensiero moderno, e cioè il manifesto del Partito Comunista. In quell'anno si intrecciarono molti elementi: la ricerca dell'identità nazionale, la questione sociale, il rapporto sempre più complesso tra democrazia e liberalismo. Tre temi, come sentite, molto attuali, che rendono queste pagine ancora fondamentale e attuale. Ma sentiamo le ragioni di questa attualità nelle domande che rivolgo adesso all'autore. Buongiorno a Mike Rapport. Good morning, Mr. Carrubba. Professor Rapport, lei scrive nel suo libro che il 1848 fu un fenomeno veramente europeo. Quali furono gli elementi comuni alla base di quest'anno di grandi rivoluzioni? I fattori più importanti sono due. In primo luogo, quello economico. All'origine del 48 ci fu una massiccia carestia. Fu quello il periodo della famosa carestia di patate in Irlanda, causata da un terribile fungo che distrusse intere coltivazioni di patate non solo in Irlanda, ma in tutta Europa. Le patate divennero una poltiglia immangiabile. Ci fu una crisi molto seria nei raccolti di grano, orzo, eccetera, e fu difficile per le persone sopravvivere, anche perché i prezzi salirono. Inoltre ci fu una tremenda recessione economica in tutta Europa in termini di produzione, una terribile crisi economica con una salita vertiginosa della disoccupazione. Molti hanno evidenziato le stesse difficoltà del 2008-2009, ma la crisi del 1848 è stata molto peggio. Allora furono tempi molto duri. Il secondo elemento comune a tutta l'Europa è la monarchia. Molti paesi avevano la monarchia. Francia, Belgio e Inghilterra avevano il Parlamento e la Costituzione, ma la maggior parte dei paesi erano governati da monarchie assolute. Eppure iniziava a nascere in Europa il concetto di società civile. Persone illuminate erano convinte di avere diritti e di avere idee forti e positive per contribuire al governo dei propri paesi, ma fino ad allora erano state escluse dal potere. Quindi stava nascendo e prendendo piede in tutta Europa la società civile che diventava sempre più critica nei confronti della parte conservatrice europea. Io credo che questi siano i due fattori comuni più importanti nelle cause che portarono alle rivoluzioni. Per esempio, un interesse verso il costituzionalismo, la divisione tra radicali, che vogliono la democrazia, se non la repubblica, e i liberali, che puntano a una monarchia costituzionale più limitata. C'è anche un interesse per quella che all'epoca la gente chiamava la questione sociale, il problema della povertà. Povertà provocata dal fatto che l'Europa non era ancora industrializzata e non aveva ancora una crescita economica che permettesse di alzare gli standard della qualità della vita. Inoltre c'era il problema della crescita della popolazione, più bocche da sfamare e più persone da impiegare. Non c'era una soluzione a tutto ciò, e questo ha contribuito a creare conflitti sociali che portarono alle rivoluzioni europee. Credo anche che questo sia un fattore comune in Europa. Infine, c'è anche la questione della nazionalità. In Italia, naturalmente, si tratta dell'unificazione nazionale, così come in Germania. Ma in Europa centrale e orientale, inclusa la Germania, il problema era anche come gestire le minoranze nazionali ed etniche all'interno di uno Stato nazionale che doveva nascere. E questo è un problema particolarmente difficile in Ungheria, dove una parte degli ungheresi cercava di ottenere l'autonomia rispetto al governo austriaco. Inoltre c'erano minoranze etniche molto potenti e locali all'interno dello stesso Regno di Ungheria, come gli slovacchi, i croati, i serbi e i rumeni in Transilvania. Tutto ciò creò notevoli conflitti. È una rivoluzione europea in senso negativo, perché tutti i problemi sono comuni in tutte le rivoluzioni europee. Ma sotto alcuni aspetti è positiva, perché le persone all'epoca la vedevano come una rivoluzione europea. Per esempio i polacchi o alcuni degli italiani, come Carlo Cattaneo a Milano, credevano che l'Italia, la Polonia e l'Ungheria insieme potessero costituire un baluardo, difendendo tutta l'Europa contro le reazioni che temevano sarebbero arrivate dalla Russia. Una delle tesi che lei illustra nel suo libro è che proprio in quell'anno esplose, per la prima volta forse, la divaricazione tra il liberalismo e la democrazia. In che senso si può parlare di questa divaricazione? Yes, that's right. I mean, most liberals, in the sense I use it in the book. Dunque, la maggior parte dei liberali, nel senso inteso nel libro, non sono poi veramente democratici. Molti liberali credevano nei diritti civili, il diritto alla libertà di parola, alla libertà religiosa, alla libertà di associazione, eccetera. Ma non molti liberali credevano nella democrazia, nel diritto al voto per tutti e al fatto che ciascuno ha il diritto di essere rappresentato in Parlamento. Ed è possibile vedere questo contrasto in Germania, dove quando fu eletto il Parlamento tedesco, ai diversi stati tedeschi fu concesso di scegliere come avrebbero voluto mandare i loro delegati scelti in Parlamento. I liberali esclusero molte persone dal voto. È interessante notare che là dove il voto fu concesso a fasce più ampie, come in Prussia, che era pressoché democratica perché concesse il voto ai contadini, ciò avvenne perché il voto ai contadini andava ai conservatori. Ironicamente, una delle lezioni del 1848 è che la democrazia poteva ricostituire un governo conservatore, come successe in Francia. furono comunque i radicali a spingere verso forme più democratiche nel 1848. Furono quelle tensioni tra i moderati, i liberali, che volevano delle monarchie costituzionali, e i radicali, che ambivano a qualcosa di più democratico e alla Repubblica, che portarono alle tensioni all'interno del fronte rivoluzionario e al conseguente ritorno dei conservatori. Lei ha fatto un cenno alle monarchie assolute. Nel libro illustra come lo Stato dei Savoia fu l'unico Stato italiano che rimase uno Stato costituzionale anche dopo l'anno terribile del 1848. Sì, credo che il Piemonte sia uno dei più importanti successi della rivoluzione del 1848. In Italia, dopo che gli austriaci ritornarono al nord, distruggendo la Repubblica e restituendo la Lombardia al governo austriaco e sconfiggendo i piemontesi, questi ultimi riuscirono a mantenere la Costituzione. Credo che questo sia molto importante, perché diede al Piemonte delle credenziali liberali all'interno dell'Italia. La Costituzione dei piemontesi non era democratica perché, per esempio, solo circa l'1% del popolo aveva diritto di voto. Ma poiché era l'unico regno ad avere una carta costituzionale dopo il 48, per qualsiasi italiano liberale che ambisse all'unificazione dell'Italia e cercasse uno Stato che facesse da leader del movimento dell'unificazione, il Piemonte era l'unico potere, con la Costituzione, che forniva delle credenziali liberali. Forse non era quello giusto per l'unificazione, ma l'unico candidato disponibile da quel punto di vista. In questa prospettiva, il Piemonte è proprio come la Prussia in Germania. La Prussia ottenne la Costituzione ed ebbe lo stesso ruolo nei confronti della Germania. Infatti, la Prussia viene definita il Piemonte della Germania. Thank you very much, Mr. Rapport. Thank you very much too. Il confettino. Ai ragazzi già grandicelli che sono appassionati di storia segnalo un bel libro su un altro momento decisivo nella storia del mondo moderno, in particolare la guerra del 1904-1905 tra la Russia e il Giappone. Si intitola 1905, Bagliori a Oriente, di Olivier Robin, illustrato da un grande disegnatore di libri per ragazzi, cioè Roberto Innocenti. Il libro è pubblicato dalla Margherita, 62 pagine, 20 euro. Non è, ripeto, un libro per bambini, ma uno strumento per far accostare i più giovani a una dimensione così importante come la storia attraverso una pagina certo molto importante, ma forse meno battuta di tante altre. Un libro tira l'altro. Le note del notturno numero 27 di Chopin ci introducono a questa sezione che è dedicata al bicentenario di questo grandissimo compositore che è stato ricordato in tutto il mondo pochi giorni fa. E allora vi presento per primo il libro di Piero Rattalino, Chopin racconta Chopin, pubblicato dalla Terza, 274 pagine, 16 euro. Nel momento in cui ricevetti la splendida lettera della mia adorata mamma, tutto era stato già deciso. Il 22 febbraio era scoppiata a Parigi la rivoluzione. Poco dopo tutta l'Europa continentale era in subbuglio e nei polacchi in esilio era rifiorita una grande speranza. Scrivendo il 4 aprile a Julian Fontana, che si trovava a New York, feci un quadro della situazione politica e dissi: «Il moscovita avrà del filo da torcere quando dovrà marciare contro i prussiani», perché correva voce che lo zar avrebbe deciso di occupare il territorio di Poznan, soggetto alla Prussia, dove si stavano concentrando in gran numero gli esuli polacchi. I contadini galiziani hanno dato l'esempio a quelli della Volinia e della Podolia. Si svilupperanno di sicuro dei terribili avvenimenti, ma alla fine ci sarà una Polonia grande e prestigiosa. In una parola, la Polonia. Perciò dunque, malgrado la nostra impazienza, aspettiamo che le carte siano state ben mischiate per non perdere invano delle forze che, al punto giusto, possono diventare utilissime. Quest'ora è vicina, ma non suona ancora oggi. Può darsi fra un mese, può darsi fra un anno. Qui si è convinti che il nostro affare prenderà corpo prima dell'autunno. Le rose e speranze d'un mattino. La vita culturale nella Parigi post-rivoluzionaria, Luigi Filippo aveva subito abdicato ed era stata proclamata la Repubblica, non era per il momento favorevole a chi, come me, viveva del suo lavoro di insegnante con una clientela aristocratica. Dovevo andarmene per un po', fino a che le cose non si fossero riassestate. Ma dove? Con l'Europa in fiamme non c'era molto da scegliere. Accettai perciò il consiglio di una mia allieva scozzese e il 19 aprile partii per l'Inghilterra. Ma sentiamo come lavorava Chopin nella descrizione che ce ne ha lasciato la sua amante, appunto George Sand, in occasione di una permanenza a Palma di Maiorca. La sua creazione era spontanea, miracolosa. La trovava senza cercarla, senza prevederla. Arrivava sul suo piano improvvisa, completa, sublime. Solo più tardi cominciava il lavoro più penoso al quale io abbia mai assistito. Era un susseguirsi di sforzi, di incertezze, di impaziente ricerca per riafferrare certi particolari del tema come lo aveva sentito. Si rinchiudeva in camera per giorni interi, piangendo, passeggiando su e giù, spezzando penne, ripetendo e modificando 100 volte una misura, scrivendola e cancellandola altrettante volte, ricominciando il giorno dopo con un'ostinazione scrupolosa e disperata. Passava 6 settimane su una pagina, per poi tornare a scriverla tale e quale l'aveva tracciata di getto. Questa citazione era tratta dal volume Chopin a Palma di Maiorca e altre storie di Giovanni Judica, pubblicato dalla Vita Felice, 124 pagine, 12 euro. Questo libricino è un colto divertissement di un famoso giurista che qui raccoglie alcuni suoi scritti musicali, quasi tutti musicali, che testimoniano la grande passione dell'autore. Troviamo qua tutti i grandi nomi della musica, tra cui in particolare Mozart. Particolarmente divertente è lo scritto in cui Judica fa i conti in tasca a Mozart per concludere che Mozart amava il tenore di vita dei nobili che frequentava, amava il lusso e la bella vita. Il divino Mozart era ricco, ma aveva le mani bucate. Una importante iniziativa dedicata agli appassionati di libri ha avuto inizio ieri a Milano. Questo ciclo si intitola Alza il volume, se leggi fatti sentire. Sono le giornate della lettura che ci accompagneranno dal 6 al 28 marzo. Il programma completo lo trovate sul sito www.comune.milano.it/lettura. Sappiate che ci sono molti incontri con autori, ci sono molte iniziative nelle biblioteche, molti luoghi pubblici milanesi, come anche molte chiese, mostre in varie biblioteche e vari incontri. Tra questi ultimi vi segnalo degli appuntamenti che hanno luogo la domenica in collaborazione proprio con il Sole 24 Ore e con alcuni colleghi del Sole 24 Ore che parteciperanno alla presentazione di alcuni libri recenti. Oggi per esempio, questi incontri hanno luogo alle 11, oggi per esempio è stato presentato a Palazzo Reale il volume Lavori di scavo di John Maxwell Coetzee, pubblicato da Einaudi, è stato presentato dall'assessore alla cultura di Milano Massimiliano Finanzerflori e dai colleghi del Sole 24 Ore Stefano Salis, Giovanni Sant'Ambrogio e da Luigi San Pietro. Ho chiesto a Stefano Salis di dirci alcune parole su questo libro di questo importante scrittore contemporaneo. L'idea è quella di entrare dentro il laboratorio di uno scrittore importantissimo come John Maxwell Coetzee, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura e che ha appena pubblicato questo Lavori di scavo, che è una raccolta di suoi saggi critici pubblicati in riviste come il New Yorker di grande prestigio. Coetzee non è solo uno scrittore, è un professore di letteratura e quindi ci offre una serie di ritratti di scrittori dai più noti ai meno noti, da Sebald, che è un grande scrittore tedesco, al nostro Italo Svevo, oppure al più ben noto Philip Roth, nei quali indaga il loro modo di operare nella letteratura. Questo è significativo perché ci fa vedere cosa c'è e come funziona la mente di uno scrittore. Non a caso il titolo è Lavori di scavo, ci fa entrare dentro questa officina e noi possiamo capire come lui si rapporta alla grande letteratura che lo ha preceduto e in qualche modo come lui riesce poi a scrivere i suoi romanzi. Quello che abbiamo pubblicato sul Domenicale di qualche settimana fa è stato un estratto da una sua recensione molto approfondita di un precedente libro di Philip Roth, Il complotto contro l'America, e partiremo anche da questa recensione per capire come gli scrittori si rapportano al lavoro dei loro colleghi, come lo giudicano, come riescono a trarne delle lezioni per poter poi loro applicare le loro teorie e metterle in pratica. Nel caso di Cozia ci si riesce molto bene. Il prossimo di questi appuntamenti, allora domenica prossima, sempre alle ore 11 a Palazzo Reale di Milano, si presenta il libro Artisti e committenti tra 4 e 500 di Salvatore Settis, e con l'autore lo commenterà il collega Marco Carminati. Prima di salutarci vi ricordo che si conclude oggi a Bologna la quarta edizione del Festival Internazionale di Fumetto Bill Ball Bull, organizzato da Amelin, Associazione Culturale. In questa occasione si sono svolti molti incontri ed è stata organizzata una retrospettiva dedicata a un grande artista francese, David B, che è il nom de plume di David Bochard. Assieme alla mostra che si svolge al Museo Archeologico dedicata a David B c'è quella di Paolo Bacilieri. In questa occasione vi segnalo che sono usciti a cura di Fandango due libri di David B, Diario Italiano e Il Grande Male. E con questo ringrazio Vittorio Mussini e Emanuela Sicuro in redazione, Filippo Auregi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi ricordo anche che la nostra trasmissione può essere ascoltata sul nostro sito www.radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.